All'inizio del XXI secolo, l'evoluzione umana era giunta a una svolta. La selezione naturale, il processo secondo il quale il più forte, il più intelligente e più veloce si riproduce in misura maggiore rispetto agli altri, il processo che una volta aveva favorito gli aspetti più nobili dell'uomo, aveva cominciato a favorire caratteristiche diverse. La maggior parte della fantascienza dell'epoca prevedeva un futuro più civile e più intelligente, ma col passare del tempo le cose andarono nella direzione opposta. Selezione naturale. Siamo alla fine di un'era. Eh già, se l'uomo non cambia, si comporta in maniera differente. Va a seguire così. Siamo vittime ciniche di un'era limite, di quelle epiche giunta al suo culmine. Siamo nell'era del grande fulmine, l'era del nulla che espande il suo flusso in un turbine. Andiamo tra tetra fuligine, entriamo nel tempo e troviamo vertigine. Diamo estinzione alle specie, come da specie anche noi ci estinguiamo. Poi ci incensiamo, ci abbiamo un'eccentrica attitudine, cioè non convivere ma certo distruggere. Cartucce uccidere, mai riparare, sempre infliggere. Redigere leggi naturali come fossimo noi vincere. Con tiritera alla tv, i rigori di un dio che ti si rivela Belzebù. In posizioni di re tribali moderni, domini odierni, dissidi interni, rossi inverni nel sud. Quando anche tu entri in questo oscuro mood, sudi d'orrore, di brutto magari ci annunciano la fine del mondo in sole 24 ore. Come un periodico alternarsi di nuove ere chiuse da sere, di lutto sfere del futuro unte da strutto, perciò illegibili, frutto di immagini distorte, forze naturali risorte, ritorte invincibili. Ciò che temiamo che succeda, creiamo mali, plasmando come c'era la materia, decomponendo negli elementi corrotti e ridotti allo sbando in preda. Siamo sempre in preda alla follia, poi la nostra razza coltiva la mania. Ergersi a falso dio, diamo origine alla fine, noi percorriamo al contrario la via del sublime, la malattia dell'universo. Un controsenso immenso, immerso nel perverso. Siamo l'olocausto apocalisse, con quattro cavalieri il terrore portiamo. Il triste giorno del giudizio, l'eclisse. L'uomo senza coscienza insiste, persiste. Si ostina, ogni guerra del mondo intestina. Colpisce, riduce in rovina, infierisce, ferisce l'ecosistema, l'atmosfera. Congela il suo sperma, inquina, viene a scombina. Buca l'ozono, è sempre in cima alla catena alimentare. Si avvicina il giorno in cui non avrà più da mangiare. Dovrà crepare, sepolto nel catrame, in eterno a bruciare. Bruciare tutto fuori da ogni schema di vino per sempre nell'antro infernale. Da anni tengo questo diario perché un giorno toccherà a te. Non voglio spaventarti, voglio che tu capisca. La conoscenza è l'unica nostra arma. All'inizio fu l'ignoranza a distruggerci. Restammo a guardare i nostri governanti che mettevano mano agli arsenali nucleari, ma riuscimmo solo ad aiutarli a ridurre incendi del pianeta. Scatenarono le glaciazioni che nel corso dei millenni spazzarono via ogni forma di vita. Allora pochi di noi rimasti fuggirono da